9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 16 febbraio, Santa Giuliana. Il tema oggi era obbligato, vi sono dei giorni in cui la mia propensione a stare lontano dal mainstream e dai titoli di apertura dei media ha un limite obbligato, perché vi sono dei temi che si impongono per autoevidenza nel rilievo che hanno nell'agenda pubblica di un paese, e sicuramente è un giorno di questi, perché dopo la decisione del GIP in relazione alle richieste della Procura di Milano e con Berlusconi accolto dal GIP al rito abbreviato richiesto dalla Procura per i reati di concussione e prostituzione minorile, è inevitabile porsi il problema di che cosa avverrà di un giudizio su questo atto della magistratura, di una valutazione sulle conseguenze, non certo di un giudizio. Il giudizio spetta alla Corte. Naturalmente bisognerà vedere quali sono le conseguenze del fatto che il giudice della legge preliminare non tiene conto del voto espresso dal Parlamento in ordine alla competenza funzionale del Tribunale dei Ministri. Bisognerà vedere le conseguenze politiche, perché è inevitabile che ve ne siano comunque. È noto che il Premier è alla ricerca della migliore strategia, non solo difensiva nel processo, dal processo, ma per reggere e andare avanti. È ovvio che le conseguenze nel Paese, nei sondaggi, siano diverse, e che questa indagine abbia ottenuto un effetto sull'opinione pubblica diversa da quella delle 16 anni precedenti su corruzione, concussione, vicende societarie o vicende fiscali. Questa volta la dottoressa Boccassini ha individuato un punto in cui la sensibilità degli italiani mostra di essere più attenta. Insomma, siamo a un punto per l'ennesima volta molto delicato, e per l'ennesima volta, consentitelo, questa è la radio di Confindustria, ma questa è soprattutto la mia opinione, che mette il focus dell'agenda del paese su un punto diverso e lontano da quelle che sarebbero le priorità di cui occuparsi. Vediamo i titoli dei giornali dedicati a questa vicenda. Il fondo del Corriere della Sera di oggi è affidato a Sergio Romano, il titolo è Accettare il giudizio, quindi è evidente che il Corriere della Sera ha la linea di non difenderti dal processo, ma vai nel processo. E tuttavia c'è in rosso poi un sommarietto su questo titolo: tutelare l'attività di governo. La Stampa preferisce un editoriale affidato a Marcello Sorgi, che è un editoriale che esprime meno un consiglio diretto a Berlusconi o una richiesta diretta al governo, in tribunale anche questa Repubblica. E c'è poi un pezzo tecnico esplicativo affidato a Carlo Federico Grosso, giurista: il rito breve diventerà molto molto lungo. Direi che i grandi giornali, più o meno l'atteggiamento odierno è quello di una surplus tra il descrivere tutti i particolari della vicenda e inviti come quello espresso dal Corriere della Sera. Naturalmente dico i grandi giornali, che su questo non hanno un'opinione ben netta e definita. È chiaro che su Repubblica la posizione è ben nota e di critica, se prendete Giornale, Libero, eccetera eccetera, la posizione è altrettanto ben netta a difesa del Cavaliere. Allora, sentiamo innanzitutto, prima di presentare gli ospiti di oggi, che sono tre, che cosa il Presidente del Consiglio aveva detto tempo fa degli sviluppi che già si capiva si stavano profilando. Alcuni noti PM della Procura di Milano hanno effettuato una gravissima intromissione nella mia vita privata, effettuando una inaccettabile schedatura dei miei ospiti nella casa di Arcore. Ancora una volta la giustizia è stata piegata a finalità di carattere politico, con una volontà chiaramente persecutoria nei miei confronti. A questi pubblici ministeri non è evidentemente piaciuto il voto di fiducia del 14 dicembre, tanto che subito dopo mi hanno iscritto nel registro degli indagati. A questi stessi PM non è piaciuta nemmeno la decisione della Corte Costituzionale, al punto che il giorno successivo alla sentenza della Consulta hanno reso pubbliche le loro indagini. Inoltre è gravissimo che abbiano tentato di accedere ai locali della mia segreteria politica per ricercare poi chissà cosa, visto che sostengono di avere prove così evidenti da poter richiedere addirittura il giudizio immediato. Non è un paese libero quello in cui alcuni magistrati conducono delle battaglie politiche usando illegittimamente i loro poteri contro chi è stato democraticamente chiamato a ricoprire cariche pubbliche. Non è un paese libero quello in cui una casta di privilegiati può commettere ogni abuso a danno di altri cittadini senza mai doverne rendere conto. Occorre fare immediatamente le riforme, tra cui quella della giustizia, che rendono il nostro paese, anche sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali di ogni cittadino, simile alle altre grandi democrazie. Ecco le parole del Presidente del Consiglio, gli ospiti. Iniziamo con il Vicepresidente del Partito Democratico al Senato, Nicola Latorre. Buongiorno, grazie. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Maurizio Gasparri, che è il capogruppo PDL al Senato. Buongiorno, senatore. Buongiorno a tutti. E il professor Tommaso Edoardo Frosini, che ci aiuterà a districarci un po' tra i particolari tecnici di diritto costituzionale e di diritto penale, per così dire, visto l'intreccio di queste vicende, insegna diritto pubblico comparato alla Sant'Orsola Benincasa di Napoli. Buongiorno, professor Frosini. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Allora, senatore Latorre, che cosa chiede il PD al governo, al Premier, dopo la richiesta del rito abbreviato chiesta dalla Procura e ottenuta dal GIP a Milano? Un atto di responsabilità, un atto di amore nei confronti del suo paese, che in questo momento sarebbe quello di restituire dignità e vorrei dire anche onore ad un paese che vede compromessa la sua immagine in tutto il mondo e all'interno è completamente prigioniero di una discussione che ha espulso i problemi veri del paese. Io non confonderei questa vicenda con i mali che ci sono della giustizia italiana, con il bisogno che c'è di riformare la giustizia e io non ho difficoltà a dire anche con l'esigenza di riequilibrare i poteri in una fase nella quale diciamo, la nostra democrazia, che deve preservare la separazione e l'autonomia dei poteri, deve comunque riflettere sugli squilibri che si sono determinati in questi anni. Ma cosa c'entra tutto questo con la vicenda che oggi è al centro della nostra discussione? Noi siamo di fronte per la prima volta ad una inchiesta che è stata nata in base ad un atto fatto dal Presidente del Consiglio nel pieno delle sue funzioni. Siamo in presenza di un procedimento che ha seguito tutto l'iter normale che i procedimenti penali seguono, offrendo all'imputato tutte le possibilità per chiarire con i magistrati la propria posizione, e cosa che Berlusconi si è rifiutato di fare. E oggi, per sottrarsi ancora una volta a questa possibilità, noi siamo di fronte ad un conflitto istituzionale che sarà portato sino alle estreme conseguenze nelle aule di un tribunale, dove Berlusconi si recherà, se come noi ci auguriamo, si recherà come Presidente del Consiglio e non come cittadino. Ecco, per queste ragioni e anche per l'effetto drammaticamente divisivo che questa vicenda sta producendo nel paese, un paese che avrebbe bisogno, di fronte alle sfide che abbiamo, di fronte ai rischi che corriamo, di costruire il massimo di solidarietà, di unità, pur nel rispetto delle differenze che ci devono essere. Noi invece abbiamo un paese che accentua gli elementi di divisione, di conflitto e che tarda a tornare a occuparsi dei problemi del paese. Ecco, questo in sintesi quello che pensa il Partito Democratico e la ragione per la quale noi chiediamo a Berlusconi di liberare il campo da tutti questi elementi. Presidente Gasparri, che la maggioranza che replica? Noi riteniamo che sia stata avviata un'indagine senza nemmeno una notizia criminis, con un intento chiaramente persecutorio. Ricordo che il 3 di novembre il procuratore Bruti Liberati di Milano dichiarò, e su tutte le agenzie e sui giornali di quei giorni, che le procedure di affido della ragazza marocchina erano state assolutamente regolari. Dopodiché si è aperto tutto questo pandemonio. In un caso di questa natura la prassi normale prevede che ci si blocchi e si passino le carte al Tribunale dei Ministri, cosa che non è avvenuta. Il Tribunale dei Ministri non è un organo politico, è un organo che può giudicare persone che hanno incarichi di governo e che viene composto da alcuni magistrati estratti a sorte all'interno dei magistrati. Tutto questo non è avvenuto, la Camera ha discusso di questa vicenda, si è pronunciata con un voto in tal senso e questo pronunciamento della Camera dei Deputati è stato ulteriormente ignorato dalla magistratura milanese, che ha disposto questo giudizio rapidissimo. Hanno contestato il cosiddetto processo breve, di cui si discute da anni in Parlamento, che breve non è, perché prevede un minimo di 8 e un massimo di 18 anni di tempo per i vari gradi di giudizio a secondo della gravità del reato. Qui abbiamo il processo lampo, il processo che viene istruito in maniera rapidissima, sorprendente. Non hanno subito sorti di questo genere persone che hanno compiuto violenze conclamate, penso a quel giovane che con un casco colpì durante le manifestazioni contro la legge di riforma dell'università un altro manifestante, l'immagine l'abbiamo vista più volte in televisione, uno che con un casco ha quasi ucciso con un colpo sul viso un altro ragazzo, solo tardivamente andò agli arresti domiciliari, se ne sono perse le tracce di lui come di tanti autori di violenze, perché non hanno avuto i processi lampo rapidissimi. Noi riteniamo che sia un modo per risolvere la partita nei confronti di Berlusconi da parte della sinistra, non riuscendola a risolvere per via politica, democratica, la sfiducia in Parlamento è stata respinta, le elezioni sono state perse, la sinistra ha quindi riattivato il suo braccio operativo giudiziario, ripeto, per risolvere per via giudiziaria una partita che per via democratica e politica non riescono a vincere. Professor Frosini, ci spiega un po' di cosette, tipo dopo il voto della Camera sollevare il conflitto di attribuzione da parte della Camera stessa nei confronti della competenza invocata, anzi esercitata dalla Procura di Milano, non doveva essere un fatto pressoché automatico? Perché non è avvenuto? Avverrà a questo punto in tempo utile per sospendere il procedimento, o il procedimento comunque avviene visto che i tempi del conflitto di attribuzione, i tempi di un eventuale giudizio della Corte sono lunghissimi rispetto al fatto che qui si parla di poche settimane invece? E poi ancora, da un punto di vista delle conseguenze sull'esercizio della funzione costituzionale del Presidente del Consiglio, così come oggi normata, il fatto di dover rispondere a questo e come agli altri tre procedimenti che si aprono tra poche settimane per il venir meno dello scudo, tutto questo che conseguenze avrà dal punto di vista ordinamentale? E poi ancora una cosa, rapidamente, esiste la possibilità che una pena accessoria come quella, si capisce chiaramente, che verrà invocata nel giudizio, qualora si tenesse, non venisse bloccato dal conflitto di competenza, cioè la pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici, possa immediatamente colpire il Presidente del Consiglio? Ecco, qualche particolare spot sulle vicende tecniche e giuridiche della vicenda. Prego, professore. Provo a sintetizzare nella risposta. Dunque, la prima domanda è se era un atto dovuto che la Camera sollevasse il conflitto di attribuzione. Direi che la Camera farebbe bene a sollevare il conflitto di attribuzione per tutelare l'istituzione Parlamento. Dal momento in cui il Parlamento ha votato con l'aggiunta dell'autorizzazione, rinviando gli atti alla Procura, e dicendo in pratica che la Procura non è competente. Ma la Però lei dice farebbe bene, ma era un atto dovuto? No. Beh, nel senso che deve passare attraverso l'ufficio di presidenza, ci deve essere una delibera con la quale la Camera dispone di sollevare il conflitto d'attribuzione attribuendo a un legale la curatela del ricorso presso la Corte Costituzionale. Cioè c'è un fatto anche, diciamo, materiale che consiste in una votazione con la quale la Camera decide di affidarsi ad un legale sollevando il conflitto d'attribuzione. E volevo passare problema... per questo, per far capire a chi ci ascolta, che siccome bisogna passare per l'ufficio di presidenza, cioè in altre parole per il presidente Fini e il suo ufficio di presidenza, a questo punto non è ancora stato toccato. C'è da immaginare che non sia in cima all'agenda del presidente della Camera. È possibile, ma sarebbe sbagliato se così fosse, perché non è una questione di battaglia politica, è una questione di tutela dell'istituzione Parlamento a fronte di una pronuncia che ha fatto il Parlamento e sulla quale la Procura e il Tribunale di Milano non ne ha tenuto conto. Certo. Quindi se si vuole tutelare il Parlamento, forse sarebbe opportuno sollevare il conflitto di attribuzione e chiedere alla Corte Costituzionale chi ha ragione, a prescindere, diciamo, dalle logiche logiche della politica e delle maggioranze politiche. Appena sollevato il rito, cioè il procedimento a Milano, si blocca automaticamente o no? No, non si blocca automaticamente, perché bisogna, in questo caso non è come nel caso in cui si chieda alla Corte Costituzionale di pronunciarsi sulla incostituzionalità di una legge che blocca il processo in attesa di, qui il processo andrebbe avanti, salvo poi, come dire, la Corte pronunciandosi andrebbe a, diciamo, a smentire o invece a confermare la decisione del giudice di Milano. Però, per capirci, tutti coloro che ci ascoltano, il processo si farà, quindi sì, bisogna essere certi sul fatto che qui si arriva a una sentenza molto rapidamente. Sì, il processo si farà. Intanto, innanzitutto direi che si farà il rito immediato, che non è il vero e proprio processo, perché il processo prevede quello poi richiesto, sì, le testimonianze, le prove, la discussione in aula, insomma il processo ha i suoi tempi ovviamente. Direi che invece i tempi di giudizio... Questo è un rito, per chi non lo sapesse, sempre per, mettiamoci nei panni di chi ci ascolta, noi in tecno, sì, certo, diritto, certo, certo. Questo è un rito che viene richiesto alla procura quando la procura ritiene, e GIP in questo caso l'ha convalidato, che vi siano degli elementi così comprobanti di colpevolezza che insomma sono tali da far saltare tutte le garanzie, le procedure che sono connesse ovviamente alla all'udienza preliminare. Perfetto, esatto, è questo. Però dicevo, i tempi invece di giudizio della Corte Costituzionale si sono molto abbreviati. Oggi la Corte Costituzionale è in grado di emanare una sentenza nell'arco di 5-6 mesi. E quindi, come dire, la tempistica fra la decisione della Corte, laddove venisse sollevato il conflitto di attribuzioni, che se non lo dovesse fare la Camera, lo potrebbe senz'altro fare il Governo, o lo potrebbero fare addirittura i legali alla prima udienza. Alla prima udienza dire no, noi blocchiamo questa udienza perché riteniamo che il giudice non sia competente e pertanto solleviamo il conflitto attribuzioni. Cioè ci sono, come dire, tre possibilità: o la Camera, secondo me farebbe bene la Camera a farlo per tutelare la sua istituzione, o il Governo in quanto il Presidente del Consiglio, diciamo l'imputato, o i legali nel momento in cui alla prima udienza potrebbero chiedere ovviamente di sollevare il conflitto d'attribuzioni e disconoscere il giudice quale giudice naturale. Professore, due cose al volo, perché così poi chiediamo agli ospiti, fatta chiarezza su questi punti tecnici, di esprimere meglio le loro opinioni politiche. Esiste la possibilità che ai sensi dell'articolo 89, quello del concorso di firma perché abbia pieno valore legale un atto presidenziale, il Presidente della Repubblica, il concorso di firma naturalmente del Presidente del Consiglio, del Governo, dal punto di vista della valutazione della piena efficacia nello svolgimento delle funzioni di governo di un Presidente del Consiglio, secondo le attribuzioni della Costituzione, ha un qualche fondamento la tesi che si vede emergere sui giornali in queste settimane, e cioè che trovandosi a quel punto a dover rispondere ai tre procedimenti che si aprono, Mediatrade, Mills, Mediaset, perché è venuto meno lo scudo, e in più sottoposto anche a questo rito abbreviato, qualunque cosa avvenga poi dei tempi del conflitto di attribuzione, si configuri una specie di ipotesi nuova, senza precedenti nella nostra storia costituzionale, ma di un governo che può avere la maggioranza in aula, ma è comunque nella condizione di incapacità di esprimere davvero funzioni di governo, perché gli manca per esempio la maggioranza in alcune commissioni fondamentali per la legiferazione alla Camera dei Deputati, uno, due, perché c'è il Premier esposto a tanti processi, ha un fondamento, in questo caso è soggettiva la sua opinione, perché nella dottrina non credo che le opinioni siano diverse, ma nella giurisprudenza costituzionale non ne abbiamo, ma dal suo punto di vista questo è un punto che può avere fondamento. Secondo, qualora si arrivasse poi rapidamente, prima che si interrompesse il processo di fronte a una sentenza o una pronunzia tale per cui si interrompesse davvero, ma se andassero avanti e ci fosse una condanna all'interdizione dei pubblici uffici, magari anche con effetto immediato, che cosa avverrebbe? Queste due rispostine tecniche ancora, professore. Sì, dunque, è una precisazione: lo scudo non è stato tolto, nel senso che la Corte Costituzionale con sentenza ha precisato e, diciamo, ha parametrato l'utilizzo del lodo Alfano, quindi lo si può invocare anche in questa circostanza. La Corte ha detto che bisogna volta per volta concordare con il tribunale la data utile per l'udienza, quindi i legali potrebbero invocare il lodo Alfano anche in questa circostanza, dicendo che il 6 aprile il Presidente del Consiglio ha un impegno che riguarda la sua funzione di Presidente del Consiglio e pertanto non potrà partecipare al dibattimento. Insomma, ecco, questo ci tengo a precisarlo. Sì. Cioè, benissimo. tutela nei confronti del Presidente del Consiglio è rimasta, è stata circoscritta con la sentenza della Corte, ma non è stata cancellata. Mi chiedeva riguardo all'articolo 89, cioè immagino sia il problema che è stato paventato nei giorni scorsi, sì, l'ipotesi di scioglimento unilaterale, cioè il Presidente della Repubblica potrebbe sciogliere le Camere senza concordare con il Presidente del Consiglio questo atto. Personalmente, ma sul punto credo che ci sia abbastanza una maggioranza della dottrina costituzionalista, non condivido questa ipotesi, sarebbe una sorta di violazione delle regole di prassi e di dettato costituzionale. L'atto di scioglimento è comunemente qualificato come atto duumvirale, cioè il potere è formalmente presidenziale, ma partecipa attivamente il Presidente del Consiglio, il quale nel controfirmare l'atto lo deve in qualche modo accettare, lo deve condividere, non è ipotizzabile la sola scelta del Presidente della Repubblica. Saremmo in un regime di semipresidenzialismo di fatto, senza essere... Diciamo che vi sono suoi colleghi che sostengono in queste ultime settimane che le circostanze nelle quali ci si trova, cioè ripeto, il mancato controllo di alcune commissioni alla Camera dei Deputati, malgrado la maggioranza in aula, nonché l'esposizione a più processi contemporaneamente, una specie di inidoneità del governo a svolgere appieno le sue funzioni. Inidoneità che a quel punto non spetterebbe al governo stesso essere certificata, quanto a chi? Al Presidente della Repubblica, al Presidente delle Camere, al Presidente della Corte Costituzionale, non si sa, però insomma il dibattito c'è. Quanto invece alla eventuale sanzione, chiamiamola accessoria, rispetto a quelle penali dell'interdizione dei pubblici uffici? Ecco, non abbiamo dei precedenti sul punto e quindi io credo che laddove dovesse essere condannato e nella condanna ci dovesse essere l'interdizione ai pubblici uffici, io credo che a questo punto si debba comunque rinviare l'applicazione della pena, perché non dimentichiamoci che il Presidente del Consiglio, oltre a essere il capo del governo, è anche un parlamentare eletto a suffragio universale secondo i metodi di democrazia, quindi c'è anche una tutela in quanto parlamentare. Lo so, però insomma a quel punto il personaggio pubblico Berlusconi si troverebbe, per quanto col rinvio della condanna, ma insomma sempre che venisse disposta. Avete capito di fronte a quanti e quali pasticci, di quale profondità, intensità istituzionale e politica siamo in questa circostanza nelle prossime settimane, nei prossimi mesi? Ora pubblicità e poi con i due ospiti politici, salutiamo il professor Frosini, ma con i due ospiti politici cerchiamo di capire ciascuno di questi particolari come la pensano. Pubblicità. Eccoci tornati in studio, senatore Latorre, ricominciamo con lei e con il punto, l'opposizione del PD. In assenza, è chiaro questo, di dimissioni di Berlusconi, quello che lei ha chiesto a nome del PD, di fronte a questi punti, che sono i punti che si svilupperanno le prossime settimane, il PD come la pensa? Che bisogna andare comunque subito alla celebrazione del processo con rito abbreviato, senza star troppo a fare attenzione al conflitto di attribuzione, a quello che dirà la Camera prima nel sollevarlo e la Corte Costituzionale poi nel valutarlo, eccetera eccetera, procedere rapidi e spediti così, mettendo in conto un'ulteriore incandescenza delle polemiche che potrebbe durare a quel punto mesi, un anno, meglio tentare di separare il rilievo istituzionale, che è molto forte, di questa vicenda dal giudizio politico che voi avete, ed è tutto legittimo, siete l'opposizione su Berlusconi e la sua maggioranza, cioè che sarebbe meglio che andassero a casa, ma insomma, visto che qui stiamo parlando di prerogative di parlamentari, di prerogative del governo, di maniere di esprimersi e di giudicare sulle competenze degli organi giudicanti ordinari, sul significato della residua permanenza nel nostro ordinamento di un organo funzionale come il Tribunale dei Ministri, di fronte a tutto questo meglio andare subito al sodo o tentare di distinguere, dottor? Guardi, lei ha fatto un ottimo servizio illustrando tutto quello che ci aspetta qualora Berlusconi si ostini ad affrontare questa fase non con lo spirito di un leader, di un uomo di Stato, di una persona che prima dei codici deve badare al sentimento del Paese, al futuro del Paese, alla sua immagine internazionale, a come si esce dalle difficoltà, e antepone gli interessi generali e gli interessi del Paese a qualunque esigenza e interesse di carattere personale. Ecco, Lei ha descritto in questo colloquio con Frosini cosa ci aspetterebbe se Berlusconi non liberasse il campo da una presenza che a questo punto diventa problematica per il funzionamento delle istituzioni, per affrontare i problemi del Paese e addirittura diventa un elemento che determina un esponenziale aumento dei conflitti tra i poteri dello Stato, con rischi seri di tenuta. Quindi, più che impiccarmi alle interpretazioni, ai cavilli, che intendiamoci meritano tutta la dovuta attenzione, anche perché una democrazia è fondata anche su regole, sul rispetto delle regole, sull'equilibrio tra i poteri, ma io mi preoccupo adesso di una valutazione di carattere più politico. Possiamo andare avanti in questo modo? Possiamo sviluppare una discussione, un confronto? Io mi voglio scontrare e confrontare con Gasparri su come si esce dalla crisi economica, su come tra maggioranza e opposizione si verificano le possibilità, persino in alcuni momenti, di trovare delle intese su alcuni punti concreti. Ma questo sarà impossibile se persiste questa situazione. Ecco, questo è il punto politico ed è la ragione vera per cui il Partito Democratico insiste sulla necessità di liberare il campo e restituire il confronto politico e soprattutto il confronto anche sui temi del rapporto tra i poteri ad una discussione che abbia una sua serietà, un suo rigore, ma anche una sua serenità. Questo è il punto. Poi io, ancora di più politicamente, penso che dopo quello che è accaduto il 14 dicembre, in questa legislatura non ci siano più le condizioni per cercare di uscire, come dire, con una grande alleanza, con una grande atto di solidarietà. Non ci sono queste condizioni, ce lo dice con maniera esplicita anche il tono del confronto politico, dello scontro politico, del dibattito, a meno che non si vuole essere ipocriti a tutti i costi. E quindi l'unica via di uscita a questo punto è il voto. Il voto può essere il modo anche per recuperare un minimo di serenità nel confronto politico, pur nella dinamica di una competizione elettorale. Presidente Gasparri. Ma guardi, che ci sia una situazione difficile, questo è evidente, nessuno l'ha mai negata, ma come nasce questa situazione? Nasce da quello che noi abbiamo definito, piaccia o meno ai nostri contraddittori, un uso politico della giustizia. Nei confronti di Berlusconi sono in corso tutta una serie di processi, quest'ultima vicenda doveva essere, come è nella prassi normale, assegnata al Tribunale dei Ministri, sono state violate una serie di procedure, come possono dimostrare decine di precedenti, quando per casi molto meno rilevanti, capirà anche a me una volta per una polemica su una vignetta, pensi lei che tipo di vicenda giudiziaria rilevante, difatti fu subito chiusa, di dover parlarne davanti al Tribunale dei Ministri perché ero ministro in quel momento. Non si capisce perché una vicenda di questa natura, di coinvolge il Presidente del Consiglio, la Questura di Milano e altre vicende, invece si sia proceduto in questo modo, utilizzando peraltro un modo di operare che io non vedo utilizzato in altri casi, l'ho detto nel mio primo intervento, molto più eclatanti. Il governo è tale perché gli elettori gli hanno dato un mandato che poi è stato confermato in diverse elezioni di altra natura, europee, amministrative, regionali. Contro il governo in Parlamento si è aperta una forte dialettica e addirittura dopo che numerosi eletti del centrodestra, eletti da elettori della maggioranza che vogliono Berlusconi a Palazzo Chigi, il programma del centrodestra, si sono distaccati, un gruppo di parlamentari, venendo meno a un vincolo politico e morale con gli elettori, è stata presentata una mozione di sfiducia, il 14 dicembre è stata votata, è stata respinta, è stata approvata la relazione del ministro Alfano sulla giustizia, è stata respinta la mozione di sfiducia contro Bondi, sono stati approvati anche in questi giorni dei provvedimenti, tra qualche istante io e il senatore relatore dovremo scendere nell'aula di Palazzo Madama dove si vota questa mattina la fiducia al governo collegata a un provvedimento di natura economica, il cosiddetto decreto mille proroghe, vedremo tra mezz'ora se, come io mi auguro e ritengo, il governo gode della fiducia del Parlamento o meno. Poi certo ci sono dei problemi per le anomalie parlamentari, in alcune commissioni potrebbe esserci o meno la maggioranza, per il fatto che noi siamo stati lesi nella decisione di diversi parlamentari eletti con la maggioranza di passare con l'opposizione. Molti si meravigliano quando qualcuno, pochi in verità, dalle opposizioni transitano con la maggioranza, nessuno si è indignato quando 30-40 parlamentari eletti da cittadini che vogliono un centrodestra al governo si mettono a votare la sfiducia con D'Alema, Franceschini e Veltroni. È chiaro che c'è un quadro assolutamente complesso. Se nel Parlamento non ci fosse più la fiducia al governo Berlusconi, se ci fosse una situazione evidente, è ovvio che a quel punto le elezioni sarebbero l'unica scelta. Mi poi colpisce il fatto che quando quest'estate io e Cicchitto come capigruppo della maggioranza abbiamo detto in varie note: guardate, questo governo scelto dai cittadini ha diritto ad andare avanti, se poi in Parlamento dovessero venire meno i presupposti di fiducia e di consenso, la parola spetta agli elettori. Ci si disse: no, voi non potete dire questo, lo scioglimento del Parlamento è una prerogativa del capo dello Stato. Adesso che la fiducia c'è, che il governo ha avuto una maggioranza, pur in un confronto molto aspro e difficile, che si rinnova quasi quotidianamente, si dice: beh, ma però si potrebbe andare a votare lo stesso. Noi diciamo: no, se c'è una maggioranza, se c'è la fiducia e sostegno al governo, il governo ha il diritto di procedere e di agire. Per quanto riguarda le vicende giudiziarie, è giusto che il presidente Berlusconi si avvalga delle facoltà che la Costituzione, le regole parlamentari e le leggi gli consentono di utilizzare per denunciare, peraltro, la faziosità, le violazioni che hanno compiuto, che hanno caratterizzato alcuni settori della magistratura. Si vuole negare che c'è un accanimento giudiziario contro Berlusconi, si vuole negare che a Milano questa sfida sia partita fin dal 94, quando avvisi di garanzia che poi non trovarono conferma delle attività giudiziarie successive hanno creato un grave documento, non tanto a Berlusconi e al governo, quanto alla libera espressione del pensiero dei cittadini. Peraltro anche queste indagini, che attraverso controlli di ogni tipo su chiunque abbia avuto contatti e conoscenza con Berlusconi, denotano una serie di abusi procedurali molto molto gravi. Io ringrazio il presidente Gasparri, il senatore La Torre, e buon lavoro in aula. Ora abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale, pochi minuti che ci restano dopo, perché ormai la pubblicità ci fa chiudere a 55, con le telefonate degli ascoltatori. Intanto grazie ai nostri ospiti. Eccoci tornati in studio, sentiamo un po' di opinioni di ascoltatori, ahimè poche rispetto alle tante che varrebbe la pena di ascoltare. Iniziamo con Antonio, che ci chiama da Torino. Prego Antonio. Buongiorno, purtroppo il senatore La Torre non c'è più, la mia domanda era rivolta a lui, perché nel primo intervento aveva detto che il presidente del Consiglio Berlusconi, nel pieno esercizio delle sue funzioni, sono testuali parole che ha colpito anche me, perché vediamo se lei poi continua a capire, cioè continua a dedurne quello che io ne ho dedotto in silenzio, e mi ha colpito. Lui nella foga e nella sua pacatezza normale gli è sfuggita la verità e non è riuscito a controllarsi, oppure non si è reso conto di quello che diceva, non lo so, quindi lui non mi può dare una risposta e mi dispiace. Perché comunque, se uno afferma una cosa simile... È normale, cioè è evidente, c'è un tribunale, anzi la procura non doveva neanche più, una volta accertato quello, doveva subito trasmettere gli atti al tribunale dei ministri e fermarsi lì. Perché Antonio da Torino ci fa semplicemente notare una cosa, anche questa non chiara ai non addetti ai lavori: la competenza dell'organo funzionale del tribunale dei ministri dipende dal fatto se l'ipotesi di reato sia compiuta appunto nell'esercizio delle funzioni di presidente del consiglio o delle figure istituzionali dei ministri, appunto. E siccome è sembrato anche a me che il senatore La Torre dicesse questo, però noi non c'è col beneficio, dobbiamo assolutamente accogliere l'ipotesi che in assenza di una sua risposta magari gli è fuggito, ha detto non nell'esercizio delle sue funzioni, voleva dire il contrario, lui ha detto nell'esercizio. Però questo è un punto delicato, l'obiezione che si fa a questo e non solo sulla natura del reato, perché la procura di Milano ritiene che quelle telefonate non siano state fatte dal presidente del consiglio ma da privato che aveva avuto rapporti sessuali e pagamento con quella minore. Distinguere le due cose. Naturalmente la parte del pubblico sostenuta col fatto che era la nipote di Mubarak, per quello che sapeva il presidente del consiglio, si presta a tutte le risate mediatiche che sono state fatte sull'argomento, e quindi questo è il sottile discrimine per incardinare o meno un'attribuzione che alla giustizia ordinaria non piace. Perché? Perché il tribunale dei ministri prevede poi l'autorizzazione del voto parlamentare, quindi è ovvio che a quel punto il processo non si fa. Per essere chiari, Marco da Modena. Prego Marco. Buongiorno, È un piacere ascoltare la Giannina e leggere soprattutto su Tempi, ma questa è un'altra cosa. E, no, riferito stamattina avrei voluto chiedere due cose anch'io. Uno me l'ha bruciato un po' lei, dico la verità, però con la domanda che gli ha fatto ai due ospiti politici. Mi chiedo, è inutile che, io credo che tutti gli italiani, almeno parecchi italiani, vedono nella magistratura un accanimento, almeno questo è il mio parere, però io faccio un passo avanti e avrei voluto chiedere, ma come ci presentiamo alle elezioni? Se Berlusconi fa un passo indietro o è costretto a fare un passo indietro, mi chiedo, il centrodestra va in mille pezzi, almeno questo è il mio punto di vista. La sinistra rappresenta. Ma lasci perdere la sinistra, però se ci sono Prodi. Vabbè, questo non credo che nessuno dei due l'abbia risposto, ma io penso che se si va a elezione adesso, Berlusconi non lo fa il passo indietro. Questo è il punto vero. Naturalmente tutto è possibile, ma non credo affatto. Da quello che si capisce, vuole evitare le elezioni, ma se sono le elezioni diventa l'ordalia su Berlusconi, tanto per cambiare dopo tanti anni. Silvano da Genova, prego Silvano. Allora, veniamo subito al dunque. Se il primo ministro fosse condannato, sarebbe come se un cadavere fosse messo lì a rappresentare l'Italia. Ci rendiamo conto? Sì, cadavere non lo so, però insomma, è ovvio che di fronte a una condanna, per più per reati di questo tipo, non c'è dubbio. Quindi la sua opinione è che se ne vada subito, chiaro? Silvano, è questa la sua opinione? È una maniera di rappresentare l'Italia, scherziamo. Sì, questo è un punto di vista molto diffuso. Benissimo. Guglielmo da Napoli, prego Guglielmo. Oh, buongiorno, la domanda, dottor Giannini, la faccio a lei, visto che è andato via la torre. Chiedono le dimissioni, passo indietro, eccetera. Ma il 6 aprile comincia un processo o mi sbaglio? C'è la partecipazione di due grossi calibri 90 come difensori o mi sbaglio? O insomma, a un certo momento mi pare che stiano vendendo la pelle dell'orso prima di ammazzare l'orso. C'è un sistema processuale intero da sviluppare che fino a oggi ha portato a proscioglimenti. Dov'è questa certezza di condanna? Forse è stata già promessa, è stata già anticipata. A parte i limiti non indifferenti che avrà l'accusa con la sommarietà del rito da lui stesso sollecitata. Io esercito da 50 anni la professione forense e posso assicurarle che tutta questa certezza non ce la vedo proprio. E quindi piano, prima di dire dimissioni, stanno parlando di un condannato, ma stiamo scherzando. Grazie. Allora, Guglielmo ci richiama a un'altra ipotesi che non è esattamente tra quelle preferite dai media, un'ipotesi diversa. Invece di continuare a difendersi dai processi, accettare serenamente, armi consentite dal codice dell'ordinamento alla mano, il giudizio, anche perché qui dice il nostro amico avvocato da Napoli, ma vogliamo scherzare davvero la fondatezza di questa ipotesi di reato? Di fronte a un processo, se fosse un qualunque indagato, dice l'amico da Napoli, ma io come avvocato direi, ma vinciamo senza nessun problema, non l'ha detto proprio così, però insomma qualche battuta sulla fondatezza degli elementi di consistenza del reato l'avete sentita. È una strategia, diciamo, un po' diversa da quella seguita fino a oggi, in cui o si è tentato con misure e provvedimenti diversi in ordine alla limitazione della funzionalità che veniva al governo al Presidente del Consiglio dal ripetersi delle richieste di procedimenti nei suoi confronti, o si è tentato di difendersi dai processi, e quando lo si è fatto nei processi, perché poi sono state tante, sono stati 16 processi rispetto a 24 richieste su Berlusconi in tutti questi anni, lo si è fatto con un piglio che era innanzitutto quello un po' dilatorio, quello dell'eccezione di competenza e così via. Questa strada è una strada diversa, diciamo che secondo me sarebbe meglio perseguibile in un paese che non avesse 17 anni di storia di violento scontro sui processi a Berlusconi, branditi come arma finale tutte le volte, e tutte le volte poi andati a finire diversamente da chi li aveva sollecitati e incardinati. Sentiamo ancora Giuliano che ci chiama da Torino, prego Giuliano. Buongiorno dottor Giannino, io volevo dire questo, l'avrei detto all'onorevole La Torre, che c'è un'Italia anche anche che non scende molto facilmente in piazza, ma che ragiona tutti i giorni. E io dico che questo accanimento politico che l'ha avuto la magistratura italiana, parte della magistratura verso Silvio Berlusconi, ha reso, secondo me, inattendibile, inaffidabile in tutto il nostro sistema giudiziario. E il collegamento con la mancata estradizione di Cesare Battisti, secondo me, è anche dovuto al fatto che questa inattendibilità del sistema giudiziario è conosciuta in tutto il mondo. Quindi mi permetto anche di dissentire da quando disse il nostro presidente Napolitano che non ci siamo fatti capire per Cesare Battisti. Secondo me il mondo in questi ultimi 60 anni ci ha capito fin troppo bene, dice lei, vista la magistratura che c'è. Sentiamo ancora rapidissimamente Davide da Milano, al volo. Sì, buongiorno, scusi la mia ignoranza, ma io volevo sapere una cosa: come mai c'è ergastolani, mafiosi, omicidi escono per decorrenza dei termini, non possono essere più processati quando un magistrato non emette una sentenza in 8 anni? E questo più di una volta si è ripetuto, e Berlusconi lo processiamo per direttissima perché abbiamo le prove subito inconfutabili. Davide, lei fa una domanda capziosa, mi tocca naturalmente dire che questa domanda ha in sé già la sua opinione. Bene, comunque gli italiani restano divisi, come vedete. Guardate, noi siamo andando in un Vietnam istituzionale. Penso davvero, la mia opinione è che questo Vietnam sarà irto di trappole e di sviluppi imprevedibili, al confronto dei quali il 92-94 vi aprirà una passeggiata. Voglio sbagliare, spero di sbagliare, temo di non sbagliare. Ci risentiremo. Lina intanto Ragione Radio, grazie a regia Filippo Aureggio, Alessandro Marco Tulli in redazione e a Franco Piantanita, grazie a cui anche oggi siamo andati in diretta. A domani.